dare qualche watt in più alla in vita, se nel caso mi dovesse servire. Tutto qua. Vabbè, comunque. Sì, Gianfranco, non c'è problema, ci vediamo. Mi dai la roba che non ti serve, che devi mettere da parte, la metto qua. La metto qua, Gianfranco. Io se non ci sta qua, già ho la mansarda, che già ce n'è di posto, ho un armadio in mansarda che ho messo da poco, tra l'altro ci sono tutti i cavi, ci sono tutte le apparecchiature mie che non uso, roba insomma di riciclo e di male vai. Non ti preoccupare, manda, avanti Robè, intanto nel frattempo Robè che riprendi tu, io cambio radio e passo col DAC, che dovrebbe essere già caldo adesso, ok, spengo questa e commuto sul DAC, vai Robè. Ti aspettiamo qua, cosa volevo dire Gianfra, quindi vanno bene anche di coso, perché qui c'ho quel bariotto a T, che è una grande cagata, poi se le accendi tutti e due contemporaneamente ti attenua il segnale, figurati. Sì, sì, datemi qualche minuto, che mi hanno chiamato, e devo sul chiudere una bombola. Io faccio qua una chiamata generale su 10, nel frattempo se qualcuno vuole entrare al canale 10, se Gianni è rientrato, non lo so perché ha interrotto immediatamente, è rientrato ed è uscito, avanti su 10 che vuole entrare. Io c'è nessuno, dai, io ho commutato, vabbè, questo è il DAC, non ti variazione. Una bella radio questa, cioè, cos'è il più 4? No, questo è il più 5 col DAC. No, già spinge bene. Ma poi quel coso l'hai provato, quel microfono a proposito qua? Quel microfono a proposito qua? Ah, sì, perfetto. Mamma mia, vabbè, avevi ragione. Io sono stato un po' di quei prodotti che uso io, che tra l'altro li uso proprio per pulire cose di quel genere, ma... Con la Valnero, pinguinosi, per carità, è uscito nuovo, pulito, tutto disinfettato. No, a me fa senso, guarda, io toccare, ci mi ha fatto anche schifo quando l'ha portato, ci credi, l'ho visto, ho detto, l'ho messo da parte, ho detto, questo quando vado in officina mi metto i guanti, e lo lavo bene con qualche prodotto tipo sapone Marsiglia, con quelli spruzzini, piano piano, col cotone, è pulito bene, perché mi fa senso, così con quell'altra persona che conosciamo, mamma mia, io dico, posso capire un fumatore tutto quanto, però cacca, rimango rimani, ti ha terribo lavato. E lascia perdere roba, ce n'è un sacco di cose. No, io non sono stato lì a isolare niente. Gli ho isolato solo il connettore che va alla radio, dopodiché gli ho spruzzato da tutte le parti, ho smontato i coperchi naturalmente, non è che. L'ho fatto nudo, l'ho tutto lavato proprio col sapone Marsiglia, con lo sgrassatore, ma è uscito, era nero, era completamente nero, adesso è grigio, adesso è il colore che deve essere, capito? Certo, deve essere così, io ne ho prestato uno, te l'ho detto, a una persona, ma adesso gliene chiedo, speriamo che non me lo ritorni pieno di gozo, di, come si dice in sassarese, di bingo, perché io sinceramente lo temo per la persona che conosce. Mamma mia, lo so, già ho avuto modo di frequentare quella persona, tu lo sai, in varie occasioni che furono a livello amatoriale, ti dico che Dio ce ne scampi e liberi. Forse sarò io esagerato, ma cacchio, se tu vedi la radio mia, sono tutte appena prese, è passato il cotone, tutto disinfettato, cacchio, perché non mi piace a me avere i segni delle dita sui gommini, sulle manopoline, ecco, è tutto lavato, quello grosso che è arrivato adesso, era abbastanza pulito, quello me l'ha portato, forse perché ce l'ho da poco, ma ho tutto disinfettato con l'alcol, ho detto, cioè, è meglio qualche malattia brutta, sconosciuta. Oggi c'è la partita, non te la guardi. Sì. Sì, scusate, mi ha chiamato mia moglie, ma c'è qualcuno che chiama molto molto basso, non so se è da fuori. Scusate un secondo, chi è che chiama Claudio? Chi sei? Ciao Mondi, Madonna Santa, e mettiti questa benedetta antenna, porca miseria, mi sembrava qualcuno dalla zona di Cagliari addirittura, Santiago 3 sta arrivando. Robè, ti saluta Mondino d'Alghero. L'ascolto basso perché c'è il QRM altissimo. Avanti Mondino, mi senti a me? No, è in mezzo al QRM, Santiago 6, c'ho di QRM, lui è di lì in mezzo. E com'è così basso se arriva d'Alghero? Aspetta che l'hai sovrappopolato, è perché c'è un'antenna piccola. Cos'hai detto Mondino? Ho capito, mi hai sentito come? Dove? C'avevo l'altra radio e ho fatto un passaggio, non mi sono accorto, c'era l'amplificatore attaccato, vuol dire, beh, normale, sai, la mia zona per lì è favorevole. Ti ascolto comunque, 4-5, no, io non ho QRM, Roberto, c'ho QRM a 1-2. Ti ascolto Mondi, vediamo se... No, vabbè, manco a parlarne, Gianfranco non ti sente. Non lo senti a Mondi, no Gianfranco? No, nonostante il QRM è basso, no. Evidentemente è proprio messo male, perché di norma su Alghero sono relativamente aperto, dai. Lo senti Mondi a Gianfranco? Insomma, attacca l'altra radio, vediamo un po' se c'è qualche watt in più, se riusciamo. Io ti sento lo stesso anche così, in QRP, però gli altri non ti sentono, capito? Roberto a malapena ti tira fuori qua nella zona alta vicino a me, ma Gianfranco proprio niente. Va bene, cambia radio Mondi, dai. Ok, come stavo dicendo, oltre a quella che ho visto io nel sedile della macchina, hai altra roba così, simile a quella Gianfranco? Roba generica, no, a me non mi sento perché sono con un 4,5, quindi sono in versione città, comunicazione di città, non mi piace avere potenza perché poi magari dà fastidio alle altre radio che sono in funzione. Niente, cosa ti volevo dire oggi, dunque c'è quella, poi devo guardare bene prima di chiamarti, c'è roba, perché tanto quella non fa neanche avversarla come rottame, perché a parte che non è un rottame che funziona dappertutto, però è troppo grande, troppo pesante, capito? Se fa un pacco ti costa un patrimonio e poi magari ti lasciano i buchi. No, quella guarda, verniciata, restaurata, sono rientrato. Non dico che torna nuova, ma è una bella cosa da vedere, però deve essere fatta a livello di restauro, no? A livello di verniciatura, trick e track, capito? Perché il corpo è tutto in alluminio. Tu pensa che io stavo guardando, ci sono anche tutti i pezzi di ricambio vario per renderla operativa. L'unica cosa che non c'è, guarda, o meglio ce le ha, però sono da cambiare, sono le batterie. Io avevo fatto un lavoro consigliato su un sito inglese, ci ho messo due batterie d'antifurto, però poi il poco uso, capito, le accarpate, insomma, guarda, li accende, però sono oramai esaurite le batterie dopo tanti anni. È alimentata a 24 volt, quindi se non c'è un alimentatore a 24 volt è un problema. No, io ho l'amplificatore a 24 volt, quindi ho anche l'alimentatore a 24 volt. E allora non c'è problema. Intanto guarda, ho visto che gli assorbimenti sono veramente bassi. E basta anche la potenza d'uscita, ma che te frega, se una cosa da soprammobile ci fa un bel filone comunque. Guarda, io ho l'alimentatore 12-24 volts da 100 ampere, dove ne uso 40 ampere a 24 volts e 60 ampere a 12 volts, quindi non penso ci siano problemi. Dimmi Mondi, adesso è un po' meglio, la modulazione è un po' strappata, però il segnale è più alto, così va meglio, solleva un po' il Mickey Game senza processore, così va meglio, lo senti adesso Gianfranco? Non lo so, quello venire avanti, vediamo un po', ho attaccato anche il preamplificatore, cosa che non faccio mai, l'antenna, vediamo. Vai Mondi, vediamo se ti sente Gianfranco. No, non ti sente Mondi, niente da fare. Ma perché sta uscendo così male Mondi? Non si capisce quello che sta dicendo. È un po' strappato, gliel'ho detto. Sta usando la radio come quella che c'hai tu, il K, però vuole regolata sicuramente. Mi ascolti Mondi a me? Sembra strana, ha una voce troppo compressa, non lo so, c'ha il Mickey Game troppo alto. No, senza processore anche gli ho fatto togliere. Mondi, dai appena di watt, a quanti watt stai uscendo? Non può aumentare la potenza, Roberto, hai sentito, pressione bruciare l'antenna, c'è un'antennina piccola. Sembra che sia in FM, neanche che sia in AM. No, già in AM, sì. Lo sento tutto bru. Il segnale adesso è sì, sei arrivato a sì qua, e Mondu, ma tu mi ascolti bene, Mondu? Cosa Mondi? No, io sto andando con 4 watt. 4 watt è proprio la potenza minima del DAC Mark 10. Microfono MB più 5 da tavolo, Mondi. No, non sto usando il K io. Mondi, tu sparito. Ma ha un antennino, proprio un antennino di macchina. E neanche buono. Sì, un'antenna piccolina c'ha, da sempre, insomma, la va tolta l'antenna grande. Prima arrivava molto bene dal ghetto. Capito Gianfra, non c'è problema, io ho anche 24 volt, sono alimentatore 12-24 che ho comprato con l'amplificatore che va appunto a 12 e a 24 del Remate Winner LA1000 e quindi non ho problemi. Ho 60 ampere con i 12 volt e 40 ampere con i 24, capito? Quindi no. Se devo far funzionare qualcosa a 24 non c'è problema. Sì, ascolta, te ne serve, io la faccio ancora, un caricabatteria di quelle ricaricabili a filo, un intercadmio, set telecomandi così, tipo di TV, insomma ne contiene 4, non c'ha l'indicatore, le puoi anche scaricare e ricaricare. Ti serve? Ehi, ti ho detto, metti tutto in una cassetta, quella roba piccolina, poi quella radio grande, te l'ho detto, la metto qua e vedo se riesco a sistemarla da qualche parte, capito? Non c'è problema già. Non buttare mai niente, lo sai, te l'ho detto mille volte. A me dispiace che non riesco a contraccambiare mai, perché quando cosa ti do io? Qualche stronzata che mi hai chiesto, ma non ti posso dire niente, perché professionalità in queste cose, ognuno ci vuoi baracchini bici, ma li dai tutti a me sempre. Quindi non c'è problema, però non buttare mai niente, poi vedo io se è roba che posso tenere qua o roba che posso conservare sui mansarda, c'ho un armadio chiuso a chiave, capito, dove c'è un sacco di fusaglia che tengo, pezzi, contropezzi, schede, schedine, eccetera, microfoni che non funzionano più, rosmetri, wattmetri, balle varie, capito? Sì. Non li usi neanche, se no al posto di mandarli là fuori, così, come si chiama, quel veicolare che era anche in garanzia, tra l'altro te l'avrei dato, perché proprio non, per me anche fare il pacco, ballarlo, spedirlo è una rottura, capito? Poi per valutazioni di 100 euro, 150 euro, ma chi se ne frega, capito? No, non c'è neanche un commutato d'antenna quasi. Cosa ti volevo dire? C'è una cosa, vabbè, che quando ti viene la vicaia carogna, tante cose. Riprendi Gianni, no, Michele, no, Riccardo. Roberto, sì, Roberto, non Riccardo. Mettilo quello dell'altra volta, quello lì, Giafra, per tenerlo lì io lo accendo, non è che l'antenna ce l'ho, ma no, non entro più, capito, non ne uso, ce l'ho un altro veicolare, ne avevo due, uno l'ho dato in aggiunta per una radio che ho comprato, me ne è rimasto uno di veicolare, ma no, non li uso più, non ho più quello stimolo di stare in V, in U, in HF, niente, va bene, HF non voglio più nulla, non me ne fossi nulla, li ho proprio eliminati. Te l'ho già detto, non ho proprio manco i 6 metri, niente, non ho niente, HF non li ho più. Come HF così chiamati, ho il 430 e il 140, ma baracchini a sintonia continua praticamente. V e U ho tolto anche l'antenna grande, ho tolto tutto, ho una X50 che mi serve per il PMR, ma giusto per ascoltare, se me lo vuoi mettere in mezzo, poi se capita qualcuno, magari, insomma, già ci sentiamo al telefono, Gianfra, dai, se no facciamo un mercatino qua e no, non mi piace parlare delle cose nostre. Già ti chiamo dopo al telefono, così ci facciamo una chiacchierata e vediamo un po', ok? Oh, a proposito, cambiando discorso. Sì, nada. Allora, io ho un vecchio test di quelli della ICE, ne ho due, dai. Purtroppo non si trovano le batterie a tre volte, quelle tipo le filo, i torcioni, e una via di mezzo tra la filo grande e il torcione. Sono a tre volte e sono allungate. Stavo guardando su internet e non le trovi da nessuna parte. Ho chiesto a Fusaro che lui le teneva, ma ha detto, ti danno un adattatore, un cilindro, che ci metti le batterie da 1,5, non so cosa, come fai, di quelle a litio, che sono un po' più piccole, da 1,5. Non ne avete visto voi in giro qualcuno che ce l'ha, che almeno ci abbia un po' di tensione? Tanto mi serve solo per fare, per vedere se c'è continuità col test della lancetta. No, io ho le batterie ricaricabili da 1,5, 1,2 per essere più esatti, poi ho le batterie a litio, che però sono tutte da 3,7, non mi risulta che ci siano da 3, forse saranno quelle a bottone cosiddette, e le altre non so. No, tra, oramai riguardo a quella veicolare, tra virgolette, quella l'avevo già scritta, ma per avere quelle quotazioni, considerando che è un oggetto nuovo, ancora in garanzia, era giusto, perché mi hanno valutato anche l'altra roba un po' meglio, se no, ma non le vogliamo più indietro, ci vogliono una volta vendute a quei prezzi, dice no, te ne tira, ci abbiamo le nostre impacchettate ancora da vendere, quindi è un problema. Comunque, vabbè. Vabbè, arrivo subito. E niente. Ah, ecco, no, cosa ti volevo dire, non sono ricordato. Poi quello che volevo dare, se lo te lo ricordi, quello bello grande, quello frequenzimetro, che tra l'altro ho usato per vedere se tutte queste radio erano anche allineate, e lo sono, ha visto uno, ha detto, è questo qua, e non è quello che stavo per dare, ha detto, ma stai scherzando, ma sei tutto scemo, ha detto sì, in parte sono anche scemo, perché è troppo grande, Alco, mettitelo sotto il letto anche, però te ne dico che cosa fare, non fanno più così questi apparati, che è un apparato da laboratorio, quindi ho scelto quel consiglio, infatti l'ho usato per vedere l'allineamento della radio come frequenza, perché adesso ti fanno anche le radio disallineate, normale, queste qua nuove sono tutte perfette, capito? Quindi io vedo, perché non ci stanno, è inutile, se vedi i cavi che ho, i cavi, cavetti USB, PSB, di tutti i geni, di tutti, ma no, poi magari li compro nuovo perché non ci voglio cercarli. E vabbè, riprendi, salve. Ti sei assentato un attimo, ti ha sorregolato e torna subito. Ah, confermo, tu chi sei? Sto ascoltando una vecchia carogna di Pietro del Furo, sta facendo una piccola cultura ascoltandomi. Paolo, ciao. Oh, Gianfra, ciao Paolo, buonasera. Mi stavi dicendo qualcosa? Sì, di quel Racal che hai visto. Quello lì l'ha visto uno che se ne intende, ma ha detto sarà scemo, che cosa? Ha detto sì, un po' scemo, già lo sono, però. Ha detto, ma mettitelo sotto il letto, se non c'è spazio, ascolta, che questa roba non si dà. Che è da laboratorio questo affare, non è certo come quelli che trovi da Media Globe, no? In quei negozi, questo c'ha le cifre fino all'ERT, volendo arriva, e poi non mi racconto neanche che arrivava fino come lettura a 250, quindi per noi c'è una banda. E vabbè, e lì ho trovato un buco sopra un armadio imbustato, e si rimane lì. No, vabbè, quella roba, quei livelli ti conviene sempre tenerla, capito? Comunque dopo già ti chiamo al telefono, così mi dici alcune cose. Ho sentito e sto Paolo, ciao Paolo, buonasera. Hai detto che sia un vecchio CB, non so. Comunque buonasera, Claudio Sparviero da Sassari, località, diciamo, Serra Secca, o per meglio dire via Milano Alta. Avanti, riprendi e fai girare per Roberto se vuoi rimanere in ruota. Sì, ti ho ascoltato anche molto. Sì, stavo ascoltando, è un po' di tempo che mancavo, mi sta facendo una piccola cultura ascoltandomi. Vabbè, altro amico. Ciao Bruno. Ma che te ne vai, a chi sei? Sì. Franco? No, Massalino sono, ciao, buonasera a tutti. Ciao Raffaele. Questo è uno di quelli che è diventato vecchio. Vabbè, io non ti ho riconosciuto, però ciao Bruno, buonasera, ben ascoltato. Non ti ho riconosciuto perché c'ho, uso tante di quei baracchini, mi cambiano molto la voce, arrivo e quindi non ti ho sentito, non ti ho capito di tutto. Comunque ciao anche Natalino, buonasera, avanti Robert, riprendi. Infatti anche a me mi sembrava la voce di quel Bruno l'altra volta, non so se ti chiami effettivamente Bruno o Paolo o il nome nativo qua di radio. Bruno, comunque ti avevo già ascoltato e riconosciuto la modulazione. C'è anche l'amico Natalino, che lo facciamo venire avanti. Avanti Natalino, buonasera. Buonasera, ciao Robert, purtroppo non posso rimanere che lo sai di disturbo. Era entrato solo per salutare. Ehi, sta facendo un po' bruttino di radio, comunque già ti ho ascoltato. Avanti a te Bruno e poi ti rilancio a Gianfranco. Ok, ciao Natalino, ben sentito, lo stampo. Sì, beh, diciamo che non mi sono utilizzato per tanti anni la radio Paolo, io sono amico che spiega Paolo, la radio Paolo, ma se mi chiamano Bruno, e invece già mi hanno riconosciuto, ma lei... Vai Gianfranco. Infatti anche io ho qualche dubbio. Ciao Bruno, buonasera. Ciao Natalino, quanti mesi, mamma mia. Neanche gli auguri di buon anno ti abbiamo dato. Comunque Natalino, anche se in ritardo, sperando che sia migliore. Un'altra cosa di questi mesi che mi ha gettato nello sconforto, Claudio, lo sai che non posso usare più il drone? Il drone che già non usavo per il maltempo, adesso proprio non lo posso usare perché è entrata in vigore la normativa comunitaria che qualsiasi drone deve essere assicurato. Quindi ce l'ho lì, come sopravvivibile, roba da matti veramente. Devo assicurare anche il drone, già basta la macchina. E il mio tra l'altro è anche fuori proporzioni perché pesa credo 1,5 kg e quindi la normativa di lì inizia dai 250 grammi, una cosa del genere, cosiddetto 250 inserti fili, bisogna fare anche il corso per pilotarlo, roba da matti. Riprendi Claudio. Mi sa che Claudio si è allontanato per l'ho chiamata. No, per il fatto dei droni, quindi anche indipendentemente dal peso, anche se ne hai uno da 300 grammi devi avere l'assicurazione. Sì. Costa poco, credo 9 euro, 10 euro, adesso non ricordo, ma avevo letto la normativa. Però insomma sei un po' così. Adesso sembrerebbe che abbiano allungato la quota, perché è tutto in base adesso alle leggi comunitarie, la quota di altezze. Prima di qualsiasi decollo devi sempre controllare se non è una fly zone, ci sono le carte. Insomma, devi diventare un mezzo pilota in parole povere. A quel punto voglio far volare, le faccio fare il raso terra, la terra, e questa atterra anche automaticamente, tra l'altro, uno spettacolo, più il pulsante, lui torna indietro, cerca il punto e scende. Figurati che lo usavano anche per pescare, per portare la lenza molto a largo e poi sganciarla. E vabbè, cosa vuoi che ti dica? Pazienza. Riprendi. Stavo ascoltando, va bene, allora avanti l'amico. Ciao Bruno, ciao Gianfranco, ciao Claudio, Roberto e Natalino in ascolto. Salutoni a tutti, riprendi di nuovo Bruno e fai girare, vai. Ciao Giulio, ben sentito, aspetta, sto facendo già sono passato poco fa, sto salendo la portatore, sono in macchina e sto andando su al monte. Ok, avanti Natalino. Dai, riprendo io che adesso me ne devo allontanare, dai, vi saluto a tutto, scusa a Giulio che non ho fatto neanche tempo a sentirti più di un minuto perché devo far cosa. Ciao Giulio, ciao Bruno, ciao Gianfranco e ciao Claudio e tutti gli eventuali amici qua su canale 10, io devo staccare che devo fare cosa. Buon proseguo di serata, dai, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Sì, K, ritorno io, dai, che mi ero allontanato un attimo, purtroppo ci faccio ancora mia moglie che sta facendo la terapia, quindi intanto me ne va lontanare. Ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato. Ciao Robè, poi già ci aggiorniamo magari domani, dai, se ce la faccio domani mattina. Va bene, non so se volevi prendere Natalino, altrimenti riprendi tu Giulio, vai, riprendi Natalino. Natalino mi pare che stai facendo un po' di silenzio perché da fastidio quando ho capito la panica. Giulio, riprendi. Ciao Roberto, ben ascoltato per 3 secondi. Va bene, dai, stavo ascoltando perché io faccio sempre così, prima di entrare ascolto chi c'è in ruota, in modo di sapere chi c'è e chi non c'è, per poter salutare tutti. E va bene, state parlando del drone. Mia figlia ce l'ha il drone, ha anche la patente, lo usa per scopi professionali. Per cui, questa mi risulta nuova comunque già fra, che bisogna assicurarlo adesso il drone, ma una nuova normativa adesso di recente è venuta fuori. Vai già fra. La normativa europea è entrata in vigore e qualunque drone adesso deve essere assicurata, perché se cade in testa qualcuno, anche se pesa poco, il mio pesa molto, 1 chilo e qualcosa, fa danno, capito? Perché loro hanno messo l'ipotesi che sei in macchina, ti vedi questo affare fuori controllo, ti si sbatte e ti manda fuori strada e devi qualcuno che vuoi pagare. Capito? Ed è anche una cosa giusta, se vogliamo, perché c'è troppa gente anche incosciente. E cose di questo genere, purtroppo è così. Volevo dire a Claudio, non so se ho toccato io qualcosa qua, ma mi sembra che hai calato il segnale, è possibile. Vieni avanti. Sì, sto andando a 4 watt, Gianfra, 4 watt il DAC con la minima potenza, perché altrimenti da Roberto se aumento la potenza vado troppo in saturazione, mi deve attenuare. Già va bene 4 watt, dai, l'importante ci sentiamo. Se poi non mi sente qualcuno aumento appena, ma 4 watt sono più che sufficienti. Avanti Giulia. Ok, qua io a voglia se sono sufficienti, 9 più 10 qua, con 4 watt, per cui meglio di così. Sì, Gianfra, come ti ho detto, mia figlia lo usa per questioni professionali, io per uso professionale perché a lei serve, ma lei è patentata anche, eccetera, eccetera. Va bene, avanti, meglio così. Ci vuole l'assicurazione, la facciamo, non c'è problema. Avanti Bruno. Ascolta, io sono in macchina. Sì, ti sento. Da 9 a 7, da 7 a 9, insomma, con SB, naturalmente sei in movimento, cioè, hai la radio bassa sempre, procurati un microfono preamplificato, blu, che anche quello è importante. Magari il segnale può essere basso, però se la radio è buona, il segnale non ce ne frega niente. Per cui va bene così. Ok, poi quanto prima provvedi a mettere l'antenna anche a casa, così quando sei in stazione fissa va ancora meglio. Non c'è bisogno che ti dica queste cose, già sei esperto da tanti anni. Vabbè, quanti anni? 49 anni, quasi 50 anni, là. Siamo lì. Ok, riprendi Gianfra. Brecca? Sì, c'è un break, avanti. Buonasera a tutti, Antonio da questa parte. Sì, ciao Antonio, buonasera. Io ne approfitto perché mi hanno chiamato e devo andare a vedere la stazione pizze. Ok, riprendi Giulio, anzi no, c'è Claudio, riprendi Claudio. Fieni un po' a far girare tu, ci sentiamo più tardi eventualmente. Ciao Gianfra, buonasera, ben ascoltato dalle prossime. Ehi, 9-10 con 4 watt, Giulio, va benissimo alle punte. Non so chi è entrato perché a me mi è arrivato tutto distorto, chi è? Antonio Bombo, non c'è bisogno di gridare, avanti Antonio. Come distorto qua? Forse perché c'è la gente sovramodulando. Non so, adesso un po' meno, comunque ti sento sempre molto occupato. Sempre il solito discorso, vabbè, mettiamo di più, guarda se ti piace. Avanti Bruno, dove sei? Oh, dopo, guarda che io sono staccato, Purtroppo la 27 non cambierà mai, a volte ci accavalliamo uno con l'altro, io ripeto, sono un 4 watt, quindi chi vuole parlare sopra parli, non è che mi interessi più di tanto. Ok, non so cosa dirti, o forse perché gridi, non lo so, staccati da quel microfono un pochino, c'è una distanza, io quando uso questi tipi di microfoni con i baracchini sto più o meno a 30 cm, 20 cm parlando normalmente, se tu gridi vai in distorsione, quindi io ti sento male. Chi era altro che voleva entrare? Avanti. Buonasera, Doppio Rum. Va bene, è entrato anche Doppio Rum e buonasera anche a lei. Avanti Giulio. Sì, ok, infatti io l'avevo rilanciato a Gianni, vabbè, ma c'è stata una sovramodulazione, non fa niente. Vabbè, a tu, cosa vuoi che ti dica? Chiedimi come stai uscendo, come solitamente fai, ti dico che non c'è bisogno di gridare, arrivi bene lo stesso quando non gridi, se gridi esci distorto. E tu vai avanti Antonio. Perché ero in piedi, se io mi metto in piedi è logico che non esco bene, cioè guarda adesso che adesso mi sono seduto, sto facendo roba, mi sono combusto in piedi, magari faccio appena di gufo anche Marazzucci, capito? No, comunque, cosa vuoi che dica? Poi allora anche il lineare forse è attaccato, ma hai attaccato il lineare anche? Ma cosa lineare? Sono in parte della radio. No, non è la solita radio tua, vabbè, comunque, sistema, dai, già va bene lo stesso, già ti capisco. Avanti Bruno. Ok, d'accordo, giusto ancora anche una cartella, sto usando questo vecchio HD23 preso dalla cantina che è di porcheria sopra, abbandonato, con la vecchia antenna, chiave corda, vecchia cori, vita da gialla, la antenna rossa, e sta guardando da Madonnino. Come è arrivato qua? Abbassa Gianni! Cosa? Parli velocemente, poi abbassa perché arrivi sparato, a momenti mi fai sordo. Aspetta, di bene. O Blu, ho detto, 9.30 sì. Come stai fatto amicizia qua, sei stato abbassato. Sì, perché mi viene d'aria, piano, io sono, poi non si sì, 9 più 5 adesso Bruno, mi stai arrivando, 9 più 5, va benissimo così. Avanti Claudio. Di più. Ma andiamo a qui, io faccio la passata un po' di sposto, che sono attaccato, ho fatto di guarda che non è successo, però che tanto era studiato, mi hanno sentito la pezzina. Ero ad Alghero, ho parlato con Melissa, Lendo, dopo Toro, guarda, una cosa, mi studiava che stavo facendo. E andavano molto bene, ve lo dico. Queste parlate in quattro, cioè o ci rilanciamo, rispettiamo il bianco e parliamo quando ci rilanciano il microfono, se no io me ne sto andando perché non capisco niente. Avete parlato nuovamente in sei, Giulio, Gianni, Bruno, tutti in pari. Vabbè. Ok, sei vicino a te, è chiaro che arriva 9.30, qua è 9.10, quindi poco fa la Santiago 7. Mi sembra aver sentito anche Marco in aggiunta, che naturalmente è quello che ha prevalso su di tutti. Avanti Marco, buonasera. Sì, buonasera a tutti, no, ho detto di più, hanno ripreso in tre, vabbè, ogni tanto capita. Dai, io non posso parlare, perché sono un po' disturbato di stomaco, che ho mangiato una cosa e non mi è piaciuta per niente, e proprio mi ha rovinato lo stomaco, quindi rimango in quell'X, dai, rilancio Gianni, riprendi Gianni, buonasera a tutti. Ciao Marco, ciao, e cosa hai mangiato di così velenoso? Abbiamo fatto dei banalissimi tortellini alla panna, mamma li ha trovati buoni, a me mi hanno veramente buriato, c'è uno ripieno che aveva un sapore così innaturale, una bucaria, roba di Eurospin, è strano però, è la prima volta che capita una cosa del genere. C'ho un leggero senso di pienezza, come di leggera nausea, anche perché era un bel, ne abbiamo fatte la panna, va bene. Riprendi Bruno, quel X per me, non riprendo. forti e la chiusa del contributo. E la ragotta, allora va già, ma c'è la buccia, capito? Certo, è nel rapporto, si deve gettare in via, e tu mangi tutto, la ragotta è mala. Avanti già! Sì, allora facciamo girare, fai girare per Claudio, per cui fa girare, dai. Poi io lancio a Giulio, mi dici se anche tu, perché voglio capire se è questa radio che sta ricevendo male o se siete voi che se avete troppa potenza, non so, poi mi dirai Gianni. Avanti Giulio. Io ti sento bene, non c'è nessun problema per conto mio, va benissimo così, perciò meglio così, dai. Meglio così, io stavo piazzando lo scaldabagno che si era bucato, oggi l'ho messo su. Però adesso si andando domani mattina non lo posso completare perché mi serve un flessibile nuovo, perché quello che ho svitato nuovo, è nuovo, però a riavvitarlo non va molto bene. Vabbè, comunque domani mattina faccio una scappatina e lo montiamo. Vabbè, per cui va bene così, non c'è problema. Bisogna fare anche l'idraulico qualche volta. No, mi ha dato una mano mio genio a portarlo su, a metterlo su, soprattutto a scendere quello di prima, quello vecchio che si era bucato, e per cui quello è un po' più pesante perché dentro chiaramente si forma il calcare, si forma, e mentre va bene lo stesso, leggero, da scendere, non è che ci vuole questa grande forza, però è sempre più pesante di quando è nuovo. Va benissimo, avanti Antonio, bombo. Capo, io adesso vado a mangiare e ci sentiamo dopo. Ma Rosa, chi so? A tanti sono andato da me cugina in Ghibe a Santa Natoria, capita lì. Non ce la facevano loro, chi so, bizzino che vanno per la fatta a tirar nero. L'ha già cansato, da solo, 2 minuti ne ha già tirato. La sai, vivo. E ha trattato da un muro. Vabbè, non sono tutti tirati voi, se vuoi, te, cosa vuoi fare? Il problema è questo, se la vita è di tutti tirati voi, se vuoi te, allora, ma per un motivo devo fare un rinforzo, io sono romano, io pure per la vostra, ho 80 anni quasi, ho 79 anni subito, per la vostra farà dire la sola, ma che me lo faccio fare a fare un rinforzo del genere, quando lo vuoi muovere in due, tranquillamente, che per me genero, che ha creato 1,90 m quasi, che io sul biglia una mano, lo biglia, ma i diti no, sicché vede bene, nessun problema, avanti Gianni. Sì, a poi passa un attimo. Perché dopo il fisico di domanda non porta, mai fare un troppo scuro, mi gioco da che cosa io. Avanti Bruno! Vabbè. Allora c'è come giù, io lo vai io tra l'aglio della caldatanza, io sono rotto le palle di questa caldaia. Allora, non ti aspetta, tutto lungo. Scusa un attimo Gianni, che mi vuoi spostare un attimo di canale, dai, ritorno subito, a dopo. Via, guarda si greca. Bruno, tra l'altro qui la manutenzione che ci vuole, io lo sto dando a cognato, piano deve fare la manutenzione, deve farla controllare prima di accendere, però lui è una rottura simile, è meglio lo scaldabagno, è più semplice. Ma sai cos'è? E poi è una cosa che non va, non è una cosa. Prima di arrivare la gaggia, come facciamo la gara? E poi stessa, facciamo la rossa, o devi uscire, o devi abbassare la temperatura, o sollevarla, o fai freddo, o più lunghi, e stai solo regolando sui tratti, alla fine adesso la faccio, faccio tutto, solo ho avuto tutta la vita, vedo, sono da tanto. Vado, lo so, mi piace. Soprattutto mi faccio la scoccata di un di pane. Come vedo, faccio una manolata, il pane non c'è l'acqua. un anno e due mesi sono 15 mesi, però non ho ancora pagato. Ma sono già andato a telefono e poi la bolletta, non si preoccupare di arriva. Per cui adesso mi dicevo il 2000, non lo scrivo, posso venire. Vabbè, è più semplice, dai. Avanti Antonio, Antonio ci ha allontanato, Giulio tocca a te forse, dai, avanti. Ok, si vede che si è allontanato. Forse gli è arrivata una pizza, Antonio è un abitué della, della pizza, evidentemente deve essere molto goloso. Oh, una pizza è buona, a me piace lo stesso, non è che piace un po' a tutti, suppongo. Per cui, ma lui mi sa che mi frega, mi frega sicuramente, ne mangia più di me. va bene, dai, non abbiamo certamente la stessa età, non ci sono dubbi. Quindi rivisto 30 anni come minimo. E così è. Sì, no. Già, sto mangiando! E quella ha bisogno di manutenzione almeno una volta l'anno, perché quella diventa anche pericolosa, se no non si sa mai. Lo scaldabagno è il solito scaldabagno elettrico e basta, niente di particolare. Per cui io ho sempre usato quello, così, e userò sempre quello. È inutile stare lì a fare pasticci, a agganciare tanti sistemi nuovi, non è, ma che me lo fa fare, ma quando va bene, non saranno questi 10 euro in più di bolletta della luce che pago, che mi rovinano. Va bene così, ogni cosa poi indipendente dall'altra, così almeno sai benissimo che uno non può influire nell'altro a parecchio. Va bene, dai, riprendi Bruno. Comunque, queste sono molto più ampi, perché lui comunque ha fatto il discorso da già, da poco che l'Italia si è cambiato, cambiato cultura da poco, da due, esatto, questa cosa è venuta, la si senta 5 volte già, questo mese ha funzionato, si sta funzionando, e continuano a dire che si propone una Italia preparata e una rottura di palla. Per cui, ne credo, c'è il discorso del gas, che se non si usa per risparmiare, sono fatti più, perché mi è arrivata un giorno a me una bolletta, no? 621, se si usasse, ma secondo voi, quando ho chiamato, non c'è, secondo voi io non meglio, ho funzionato 620 euro di gas, dice, perché, forse avanti, vediamo, ma che cazzo vediamo così, la seconda bolletta, mi arrivi da 320 euro, cosa ti usate? Io mi sono affidato alla mobola dalla cucina, ho ritirato il collo, c'è la mobola, avete da quei piccoli, che sono la di lì, è occasione, guarda, a parte il fatto, l'avevo sentito la caldaia lì, vediamo, se ci serve qualcosa qui, e poi ho dovuto fare la scurazione sulla caldaia, su tutto l'impianto, perché qui ci serve qualcosa, sono stati qui. È inutile, chi non c'è stata vecchia per la nuova, ragazzi si ritrova. È meglio le cose obsolete. Io ho preso lo scaldabagno, vabbè, mi è costato una cifra, però è uno scaldabagno elettronico, ti tiene l'acqua, tu lo attacchi un giorno e per due giorni almeno c'è l'acqua bella calda, poi il terzo giorno è un po' tipida, non è calda calda, però consumo è minore, capito? Questi elettronici costano un po', pagati 220 euro dell'Ariston, però è una scaldabagno che anche, diciamo, ti dà anche qualcosa in più degli altri, dai. Io ho sempre usato il scaldabagno, non so cosa mi cerca. Se quando tu apri il rubinetto, che per dire la caldaia, quando a caldare l'acqua, lo fanno scrivere con l'acqua fredda del cielo. Adesso devi aspettare, poi di minuti devi arrivare la caldaia. Quando arriva la fa calda, comunque è una rottura di palle, perché dovete al massimo e non fa calda, no, sono in brutta. No. Per cui diciamo che è una separatura, perché non bisogna dare un scaldabagno, perché il scaldabagno la prima e fa lavare con l'acqua. E comunque non sta facendo una doccia, non ti bruciavi, non ti bruciava, oppure fa della lavretta, che fa un bagno. A parte le mani con il cuore, sto facendo, no, no, no, no. Avanti Giulio! Ok Bruno, ma io la verità, anche a me me l'avevano proposto di mettere le cose, l'allaccio al gas, ma no, non ci penso proprio. Continuo con la bombola, Dunque compro anche la bomba da 10 kg, così è anche leggera da trasportare, che bello base va. Potrei prendere la bomba qua da 15, magari dura un po' di più, però tutto sommato il tempo non mi manca. Il mezzo per trasportarmela, se ho il telefono e Antonio me la porta a casa, non c'è problema. Per cui sempre con la bomba e continuerò sempre così, se no io avrei altre possibilità anche. Ad esempio con lo scaldabagno potrei fare l'allaccio con il riscaldamento stesso, ma in estate poi non è che puoi accendere il riscaldamento per far scaldare l'acqua dello scaldabagno. Tu mi dirai basta mettere il bypass, in estate lo stacchi e funziona ugualmente. Non è il caso, ogni cosa indipendente funziona meglio, così almeno si guasta anche di meno. Avanti Gianni. Sì, puoi fare. Io non me ne accorgo nemmeno, il riscaldamento ce l'ho, ma lo includo nel condominio, nella bolletta del condominio ogni mese e non ce ne accorgiamo nemmeno, capisco però ci vuole il caso del documento, tranquillamente, senza mai avere problemi di soldi, di cose. Ogni mese noi vediamo una cifra e poi quando serve ce l'abbiamo. Comunque, diciamo che l'ho detto io, però anche se ti pianto, se non sei tu, se non sei passato, se non sei passato di gas. Gas, se tu sei chiaro, ma c'è gas, al 90%, se tu lo usi, se ti sei davvero, perché tu sei un po'. E sì, dovrò modificare con il gas. Dovrò mettere una lama perché non posso più dire non sono la lama, e poi non avete spiego, non sono per fare, non è possibile ragazzi, perché tutti di voi si chiama, mi sono stata a fare la gara per dare il suo ubriaco, non si vede. Comunque vado di lì, è stata a fare, sono arrivato, non è per costruire la c***a, ma si è stato in un'altra c***a. Adesso sto passando, devo verificare tutto. Perché l'amministratore manda la bolletta dell'acqua, quando si ricorda, questo, già 15 mesi che non ho fatto la bolletta dell'acqua, bisogna fare la bolletta dell'acqua, che arriva, che arriva, che arriva, non arriva, non c'è buco. Avanti giù. Ecco, mi sono rientrato, sono. Avanti Antonio, mangiato. Ma Magnardo, ha già mangiato tutto. A me alle 8 va lì. No, io non ho mangiato pizza, ho mangiato le gigione. No, ma non mi arriva la pasta di oggi, almeno. Ma non devo cucinare, la fare in piatti dentro. Ma arriva la pizza, i frutti di mare, come piace a me, tutti i frutti di mare. Ah, io non so come me l'ho fatta l'altro giorno, la giubuccio, Antuna e Gorgonzola, buona ridda era. Scusate un secondo, se vi interrompo, dai, io sono rientrato, ma vi saluto, rimango in ascolto perché devo prepararmi per portare il cane. Ciao a tutti, buon fine domenica, a più tardi se coincide, se no domani, ciao ciao. Ciao Claudio, buona serata e buona passeggiata. Ciao Claudio, ci sentiamo, avanti Giulio. Ok, e anch'io vi saluto, dai, ciao Claudio. Ci sentiamo domani. Ciao Antonio, ciao Gianni, ciao Bruno, dai. Chiudo anch'io. Me ne vado giù, c'è mio genero, per cui non lo posso lasciare solo. Parla solo con le donne. Ci sentiamo, ciao a tutti. Ascolto il filalino e poi chiudo. Avanti Bruno. Ciao, ci sentiamo, aspetta. Ciao Giulio, ci sentiamo, dai. Buona carica quando la fai. Alle prossime. Avanti a tutti. Ciao Giulio, buona carica quando la fai, ce la risentiamo. Allora, ho fatto una modifica qua, ho già. Che mi sono accorto di una cosa e mi sono assurciato, ha detto no, qua bisogna cambiare. Com'è? Va bene? Sì, va bene. Bruno, non mi sì. Hanno studiato. Ciao. a un po' di watt dall'ingresso. Sì, tutto certo, Gianni. Bruno, dai un controllo, grazie, non me l'ha accorto che era altro l'apparecchio. Dai un controllo. Kappa, bene, mi senti qua la zona, sei a Montebianchino, sei? Sì, più o meno così. Ma da che parte? Da sotto il ponte, no? Da... perché ci sono due parti da entrare, mi pare, se non mi ricordo male. Perché a Montebianchino mi pare che si entri anche da un'altra... no, forse è da sotto il ponte, in via Coso. Oh, sono ricoglionito, scusa. Montebianchino, prolungamento di via Lune Sole. Sono vicino alle Quecce io. Al parcheggio delle Quecce. Ma no, sono molto più in alto, ma ancora zona, sono questa in alto. E io lì andavo a fare i DX, c'era il parcheggio delle Quecce, il trampolino al parcheggio delle Quecce, ero sempre libero, non era nessuno, tranquillo. Ma io, ma poi io sì, perché ho detto, sicuramente qualcuno sono andato, ma c'era una trampolina di Quecce. Io non sono niente che fa una scatola, è elettronica, è stata una scatola, è portata, ma così, è la cosa della testa, questa è un po' strana, si continua a finire verso, dopo un giorno che porta addirittura verso l'Udine, verso la portata. Sì, si porta verso l'Udine, sì. Qua mi arriva abbastanza bene, mi sei 9 più 10, radio 5, va bene, Sì, sta pensando quando sta perché c'è una percorso, però c'è una piccola ventola, che si può anche ricorrere, però la radio è sotto. E la ventola dell'alimentatore. Ma tu già lo hai messo, cammino? 9 e 30, sì, radio 5, perfetta. Stai andando benissimo. Sant'Emma schicchia a voci, io mi ricordo quella lì e la Sigma di X che andavano per ponte qui lì. Allora io vedo anche Sant'Emma che mi dice a trovare cosa non si chiama lì, non si chiama ora, non si chiama ora perché la Sigma di X è una grande cosa. Però quando ho portato il suo sistema, ho presentato le antenne, la direttiva dal peso, tutto, la grafia, una scatola di quelle 20 e all'interno sono fatti i tacchi di spazzone non studiamo. Sì, quelli con la batteria a mano, non ce ne ho anch'io quelli. Quelli di plastica non serve, no? Se nasci noi soldato è più intanto, si sciuole la plastica torta e vigilata. Perché non li sapete saldare, quelli? Ma non sono andati con cautela, se no hai messo. Quelli lì ci va, non devi appoggiare lo stagno, il saldatore. Ci va lo stagno dentro e boh, finito. Quelli si sciolgono, se tu glielo punti, si sciolgono. Attimo, allora vediamo anche la prossima volta e ci si dia a saldare. Non li so saldare, li ho sempre saldati i PL. Sono quelli che sono dedicati a tutto, c'è poco da fare, sono in pratica, non si vede nulla. Non so, appunto per quello bisogna stare attenti col saldatore, non voglio dire che non li sai saldare, bisogna stare attenti perché sennò è fregato, Io devi buttare dentro, bene, però quando vedi sta, a posto, non glielo devi lasciare tanto perché sennò ci portano subito. Ma non è solo per quello, no? Se ti attacchi potente, lo vai che si sciogli. No. Vabbè che io ho la versione più vecchia, però di PL non era così disgraziata. Gli ultimi che ha portato Fusaro sono disgraziati proprio. Bisogna andare alla GPC, forse ce li hanno quelli imbattibili. Ma quando mi sento fatto la GPC che l'ha portato qua? Vediamo se l'ha portato qua, se non è andato. Ma tu non l'ha portato lì. No, ma poi il giudice, vabbè, questo qua allora, ha bisogno di una settimana per tempo, perché l'avevo già soldato, l'avevo fatto un'antenna, quando sono andato all'esame non veniva fuori, perché sai, non stavo con il potente, perché sono stato andato a una famiglia, non so, a riscaldare bene lo stato, insomma, per chiudere il caffè più adesso, e mi è arrivato in mano. No, non è quello, sono partiti di plastica, una certa vista. Dico di invece, comunque, cerca di prendere, insomma, poi sto cercando, ho comprato un arrivato in una zona, questo è un fantastico, già lì qua fa, ma come se so, qui da veloci ad altri, quindi è stato un po' anche meglio, ma non si va, ma non si va, non si va, non si va, non si va, non si va, non si va, non si va, non si va, non si va, non si va, DL, una riflessione, però si è trovato per caso, diciamo, una riflessione, e ci sono aspettato che si è trovato. Dunque c'è vado da SBC, come abbiamo fatto da vedere che lo abbiamo? Sì, sì, magari te li fa pagare quanto la farmacia, ma comunque gli accede a tutto il bene. Perché qualche cosa lui c'ha anche quarti, c'ha cose che gli altri non vengono più. Sono andato anche il giorno, ho terminato un pacchetto che sono tutti e sono già andato e comunque non sono da qui, ho girato tutta la città, stavo cercando di fare della paginetta, se non ho bisogno di una con che si trova anche nei bandi, quei pareti piccolini che hanno quelle specie di una paginetta piccola che hanno quei due paginette di rame, no? Però c'è tutta la città, non ho trovato nessuna parte. Questi mi dicevano che devi cambiarli, non li fanno più, devo mettere in casa a 12, questo non dice più. E allora ho detto, sono andato a quello che li ho trovati. Ma poi un magazzino che ci è venuto, non si può entrare. Cacca, un casino lì. Io stavo da tutto là, perché sto dicendo che sono andato a portare un rosa, cioè, ho fatto mangiare la fugata, cioè lui non sapeva, Marco c'è la rosa, Marco c'è la rosa. Io non vado a uno, mi piaceva, non lo prendo. Allora, ho trovato un amico che ci racconta, tutti io, mi ha dato il suo, adesso mi devo studiare, non mi ha detto come ci funzionava. Sì, sì, una lata. Allora, mi sono detto che quando mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto. Il problema è che se non riesco a pensare anche da successo, ho paura della guardata, pensavo anche a fare un po' particolare, perché tutto non è che si sia fatto un po' di ma la tua strumenti, da una parte ci deve essere scritto SVR e dall'altra c'è scritto VAC. Lo metti su VAC, lo metti con lo scale e poi metti su SVR, è fatto io. No, ma io, poi vado a scrivere il problema, che non faccio il problema, mi devo portare a qui. Però non mi chiedevano le cose. Ma c'era da dire, amici. Io guarda, quando sono in frequenza, l'ho portato a uno scala, poi metto il SVR e mi dà le stazionali. Ma guarda, io avevo un dubbio, perché mi faccio un po' di allora, la prima forse la prima prima, la prima prima, la prima prima, la però mi dà da un segno, fai un segno, fai un segno, fai un segno, fai un segno, fai un segno, fai un segno, fai un segno, fai un segno, fai un segno, fai un segno, io ho sempre vigilato la direzione, se ti ho sempre sbagliato, non lo so, ma penso di no. A chi tocca? A tu, a te oppure c'è altra gente? Nota chi tocca? K, oh già, non sai cosa ho scoperto. Vado a misurare lo strumento. Tensione a 11, la marca Ghidini varia. Che cosa? La tensione delle cose, a 11, dell'alimentatore. Adesso gliel'ho messa come deve essere messa. 13,8 20, che è un po' di più. L'ho messa al massimo, perché mi ha segnato quasi 13, da. Io l'ho messa a 13,8 e va bene così. 13,8 la tensione. Adesso piace l'alimentatore, ce l'ho dal dottore, speriamo che vanno di assunto, quello grande, quello da 50 ampere. Capa, ma io credo che non andava nulla, cioè se era così la tensione era bassa, non si poteva andare. Ecco. E va? Sì. Ciao Gian, buonasera. Ciao Antonio, tu non so chi c'è ancora. Ciao, mi si tocca a te, buongiorno. Avanti, c'è Bruno, io e Bruno Uragano, io e Antonio. Ciao Bruno, anche a te, ciao Bombolo, avanti. Uè, vabbè Massimiliano, buonasera. Oh. Allora, tutto a posto? Sì, sono appunto, l'altro già, non appunto la testa, no? Ok, ciao Antonio, abbiamo ascoltato. Avanti, buono. Ok, come se non è, intanto non sto scendendo, sono quasi all'una e sole, noi siamo a casa piano piano, sto accendendo l'antenna.